Dammi un panino, voglio un panino, sono un bambino e mangiando un panino sono un bambino vorace, cannibale, fratello di sorella e cugino di campagna, senza remore sulla pigna d'oro, orgoglio della famiglia Belzebù. Ci vado io, ci vai tu, ignoto rogo che lavi le ipocrisie di una melma sfoggiata con sapienza, arguzia ispirata da terre poliglote come il naso delle logge alle quali dai ragione, pigne d'oro o d'argento, non sottilizziamo, fogne da lavare col fuoco primordiale menzionato, cattivo odore di melma e sporco rivitalizzato da mio cugino Gregory, il suo naso è più lungo del tuo e anche di Lola, non sarà che sai che io so che tu sai cosa so e cosa dovevi sapere prima che parlassi con Teddy, lo conosci? È un orsetto intraprendente, sai, sì lo so che lo sai, e so che se non sai saprai, perché ti dirò cosa so, io so quello che so, non so se sarai capace di sapere, ma ascolta la mia scienza, la base va loop, a lollipop, a luna pop, a mille, a cappella, a monella, a farfalla, che spicca una micca di pane, lascia libere le piene e assorbe il cane, lo so che lo sai. Tu sai che io so, il terzo subentra e sa anche lui, quindi ricapitoliamo, io so che tu sai che lui sa che so e che sai, tu sai che so e che lui sa, io so che sai che lui sa, sapendo lo scibile siamo onnipotenti e possiamo affermare che le merdine Kinder sono in assoluto le più buone del mondo. A proposito raga, PS, dovevo ricordare a tutta la crew, a DJ Rico, a DJ Napo, a Stress, a Flack, a Pluck, a Tick, a DJ Qua, e a DJ Là, e a DJ Su, e a DJ Giù, e a Franco Zappa, e a Fonico Umberto, e a tutta la crew, che facile è criticare, difficile fare complimenti, ma se ci pensate bene, è ancora più facile accendere la TV, è ancora più difficile sollevare un camper, o addirittura mangiarlo. Yet it does exert an actual influence on that. It literally reaches out across space.